E non basta la poesia. No, non basta andare via. E non basta andare via. Ti vestirai di giugno, anche d'inverno. Con la rabbia dell'Interland, dolce eroe dagli occhi stanchi ballerai. Cose che non sai, o forse no.